Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno, la trasmissione che ormai da oltre un anno quotidianamente vi accompagna ogni mattina e ogni sera in replica alle 20:45 circa. Oggi tratteremo un caso che sono sicuro sarà capitato a decine di migliaia di altre persone in tutta Italia, vale a dire una multa presa combinata da un comando di polizia municipale di una città in cui in realtà noi non siamo mai stati. Ed è proprio questa la disavventura che è capitata ad una nostra radioascoltatrice, la dottoressa Anita Mandelli, al quale do il buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, trattiamo di questo caso proprio perché, come ho detto anticipatamente, sicuramente non sarà occorso solo alla signora Mandelli, ma chissà quanti di noi. Io però vorrei far raccontare alla nostra radioascoltatrice in pillole la sua disavventura. Prego. A febbraio 2008 io ricevo la notifica di un verbale di violazione alle norme del codice della strada emesso in data 27 dicembre 2007 dalla Polizia Municipale di Roma, in cui mi si contesta l'uso durante la guida del cellulare senza viva voce, senza auricolare, naturalmente avvenuto a Roma, con conseguente perdita di 5 punti della patente, e il verbale conteneva l'invito al pagamento di una multa di 159 euro. Ecco, io la fermerei un attimo qui, perché lei si mette in contatto con il comando di Polizia Municipale di Roma. Il comando dice, siamo nel secondo comando municipale a Roma, dice, beh, effettivamente potrebbe essersi trattato di un errore. Cara signora, faccia il suo ricorso al prefetto di Roma attraverso di noi, cioè attraverso il nostro corpo di polizia municipale. Però purtroppo questo, che sembrava un percorso corretto, viene infranto, come dire, interrotto da una lettera che invece lei riceve dal viceprefetto di Roma. Può spiegarci cosa c'era scritto in questa fredda lettera, in questa fredda ordinanza? C'era scritto che il ricorso veniva respinto perché non sorretto da utili elementi probatori, e mi si invitava a pagare ben 320 euro, cioè il doppio dell'infrazione, con naturalmente la conferma della perdita dei 5 punti della patente, o in alternativa il pagamento di 250 euro. Confermandole altresì che comunque la strada che lei poteva alternativamente percorrere era quella di rivolgersi al giudice di pace. Esatto. Ecco, allora a questo punto giustamente la radioascoltatrice dice, ma quali elementi probatori più dell'elemento probatorio di non essere mai stato a Roma quel giorno? E allora, per capire se è stata percorsa la strada corretta e giusta da parte del comando municipale di Roma, io do il buongiorno e il benvenuto ad uno tra gli esperti più seguiti del Sole 24 Ore del nostro gruppo editoriale, il comandante della Polizia Municipale di Monza, il dottor Silvio Scotti. Buongiorno. Bentrovati. Allora Scotti, che cosa c'è che non va in questa storia? Dunque, in questa storia ci sono alcune questioni che avrebbero potuto essere trattate meglio, perché in realtà formalmente è tutto corretto. La signora è stata giustamente invitata a presentare il ricorso, tuttavia evidentemente il comando di polizia municipale ha fatto una serie di controdeduzioni cercando di sostenere il proprio accertamento. Di conseguenza la prefettura, valutando che in realtà non sono stati presentati elementi probatori come testimonianze o elementi di altra natura a favore dell'annullamento, ecco che dà ragione, tra virgolette, al comando di polizia municipale, e correttamente, perché così è previsto dalla legge, raddoppia la sanzione originaria, ed ecco che la signora si ritrova questa ingiunzione che deve anche pagare oppure deve impugnare entro termini piuttosto brevi, ecco, 30 giorni. A questo punto quindi che cosa dovrebbe fare un radioascoltatore, un cittadino che si trova nella stessa situazione della nostra radioascoltatrice? Ecco, io direi innanzitutto, per quanto riguarda la situazione attuale, io consiglio caldamente, al di là di qualunque soluzione in via di autotutela, il ricorso al giudice di pace di Roma. Ricorso che, ricordo, in virtù di una sentenza abbastanza recente della Corte Costituzionale e precisamente la sentenza numero 98 del 2004, è possibile presentare anche senza presentarsi, ma attraverso la raccomandata con avviso di ricevimento. Ecco, ma al momento poi dell'udienza bisogna essere fisicamente lì con i famosi elementi probatori, vale a dire testimonianze o quant'altro? Non credo che sia necessario, perché a questo punto la signora, avendo in mano anche una lettera del comando di polizia municipale, mi spiace anticiparlo, no, assolutamente, che dice che sostanzialmente c'è stato un errore, chiaramente il giudice di pace, vedendo il riconoscimento della buona difesa della signora, potrebbe tranquillamente dichiarare cessata la materia del contendere e il comando potrebbe annullare la sanzione, o viceversa potrebbe emanare una sentenza di annullamento e relativa archiviazione della violazione amministrativa. Ecco, lei, comandante Scotti, ha anticipato quella che è stata la risposta del Comune di Roma. Ha fatto bene a farlo, perché così ha introdotto l'argomento. Allora, noi abbiamo cercato più volte il comando. In un primo momento ci è stato detto: va bene, adesso ne parliamo, vedremo, insomma, la solita risposta interlocutoria. In un secondo momento c'è stata questa risposta ufficiale, ascoltiamola. Gentile signora Mandelli, ho letto la sua email e mi dispiace per l'accaduto, che comunque rappresenta una possibilità stante l'enorme mole di sanzioni elevate in un comune come quello di Roma. Effettivamente vi è stato un errore, pertanto sarà così cortese da rimettermi una copia dell'ordinanza firma della dottoressa, onde poter procedere in via di autotutela all'annullamento di quanto in essere. Per l'invio vorrà utilizzare alternativamente il computer oppure il fax, indirizzando il tutto alla mia attenzione. Questo dovrà essere fatto nel più breve tempo possibile. Qualora avesse necessità di ulteriori delucidazioni, potrà chiamare al numero 06 e quel che segue. Confidando nella sua comprensione e pazienza, attendo il carteggio e le porgo distinti saluti. Il comandante del secondo comando di Polizia Municipale di Roma, Maurizio Sozzi. Allora, dopo aver ricevuto questa lettera, noi non ci siamo ovviamente fermati. Perché non ci siamo fermati, Scotti? Ma perché a noi sembrava quasi, magari, il nostro intervento è stato, come dire, decisivo, ma quante persone ci sono in questa condizione che non sanno come comportarsi? Noi non possiamo ovviamente risolvere tutti i casi. Questo l'abbiamo preso proprio perché era emblematico di chissà quanti. Ora, è chiaro che qua dipende anche un po' dalla casualità. Noi siamo di fronte ad un accertamento che avviene in questo modo. L'autovettura transita, non si riesce ad intimarle l'ALT, viene rilevato il numero di targa e di conseguenza poi viene inviata la sanzione. Tuttavia, questo sto parlando in via generale, penso che avvenga anche a Roma, oltre al numero di targa viene rilevato generalmente il modello del veicolo e il colore, che sono ovviamente degli elementi scriminanti, perché davvero probatori, possiamo dire, in questo esatto. caso. Ora, se viene effettuato un controllo sul numero di targa, che evidentemente in questo caso è stato letto o riportato o trascritto in maniera errata, bisogna anche verificare il modello e il colore dell'autovettura. Certo, ora... Il problema più grave è quando invece il modello dell'autovettura corrisponde anche il colore e vi è l'errore sul numero singolo della targa e non si è in grado di risalire a quale sia quello effettivo. Certo, ecco, noi comunque ringraziamo il secondo comando della Polizia Municipale di Roma, precisando che l'ultima mail che ci è giunta in redazione alla nostra assistente in studio, Laura Faggin, è la seguente. Gentilissima dottoressa, non è possibile il mio intervento e la sua trasmissione per motivi vari. La ringrazio comunque dell'interessamento. Cordiale saluti, Maurizio Sozzi. Allora, il caso è stato risolto, avremmo voluto avere con noi in trasmissione la Polizia Municipale, ma l'importante è averne parlato. Io, nel ringraziare Scotti, a capo della Polizia Municipale di Monza, lascio l'ultima parola alla nostra radioascoltatrice Mandelli. Soddisfatta della soluzione? Sì, io sono soddisfatta, anzi ringrazio moltissimo voi perché diciamo mi avete aiutato a risolvere, anche se seguirò il consiglio del vostro esperto di fare il ricorso al giudice di pace, perché è meglio comunque tutelarsi con la burocrazia. Ecco. Volevo però confermare quanto detto dal dottor Scotti, perché informalmente mi è stato detto che il tipo di autovettura, il modello, non era la mia, ma bensì un modello diverso, per cui probabilmente un minimo di controllo ulteriore potevano farlo per evitare bene. Il tutto. Bene, io ringrazio i nostri ospiti, grazie a Valeria Bernardi in regia, a Laura Faggini in studio e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani. Prima però vi ricordo la mail al quale indirizzare i vostri casi, mi raccomando che siano però esemplificativi di una moltitudine, non casi personali come spesso accade, perché quelli, ahimè, non possiamo risolverli. Un abuso al giorno @radio24.it. Da Roberto Galullo, una buona giornata a tutti.